Per il momento, soltanto da questi due esempi viene mostrato come si giunga all'illuminazione sulla natura umana. Serviranno però almeno ad indicare la via che conviene seguire. Chi trova la necessaria interiore tranquillità e calma, indispensabili per tali osservazioni, avrà già operato una grande trasformazione nella propria anima. Questa trasformazione arriverà presto al punto che l'arricchimento interiore del suo essere gli conferirà sicurezza e calma, anche nel suo comportamento usuale, che così trasformato reagirà a sua volta sulla sua anima, aiutandolo ulteriormente. Troverà mezzi e vie per scoprire sempre di più i segreti della natura umana che rimangono nascosti per i sensi usuali. Diventerà allora anche maturo per gettare uno sguardo sui nessi misteriosi fra la natura umana e tutto il resto dell'universo. Per questa via l'uomo si avvicina sempre più al momento in cui può effettuare i primi passi nell'iniziazione. Prima che ciò avvenga, occorre però ancora una cosa. È qualcosa di cui forse la necessità riuscirà dapprima poco evidente al discepolo dell'occultismo. Più tardi però lo capirà. Occorre dunque che l'iniziando sia provvisto sotto un certo riguardo di un coraggio e di una intrepidità ben sviluppati. Il discepolo deve appunto cercare occasioni favorevoli per lo sviluppo di queste qualità. Nella disciplina occulta devono essere sistematicamente coltivate. D'altra parte, la vita stessa, proprio a questo riguardo, è una buona scuola occulta. Forse la migliore. Il discepolo deve poter affrontare con serenità un pericolo, cercare di superare le difficoltà senza sgomentarsi. Per esempio, di fronte a un pericolo, deve subito sviluppare tale sentimento. Il mio timore non serve a niente, non devo avere affatto paura, ma pensare soltanto a che cosa vi sia da fare. Deve educarsi a tal punto che, nelle occasioni che prima gli incutevano timore, almeno come sentimento interiore, gli riesca ormai impossibile avere paura o perdere il coraggio. L'autoeducazione in questa direzione sviluppa nel discepolo forze ben determinate di cui ha bisogno se deve essere iniziato nei misteri superiori. Come l'uomo fisico ha bisogno della forza nervosa per utilizzare i suoi sensi fisici, così l'uomo animico ha bisogno della forza che si sviluppa solo in nature coraggiose ed intrepide. Chi entra nei segreti superiori vede cioè cose che le illusioni dei sensi tengono nascoste alla vista dell'uomo comune. Infatti, sebbene i sensi fisici non ci permettano di vedere la verità superiore, appunto per questo anche ci aiutano. Ci nascondono cose che ci spaventerebbero moltissimo e di cui impreparati non potremo sopportare la vista. Il discepolo deve essere temprato a sopportare tale vista. Nel mondo esteriore perde appoggi che erano dovuti appunto all'essere imprigionato nell'illusione. In realtà, e alla lettera, è come se si richiamasse l'attenzione di qualcuno su di un pericolo al quale già da molto tempo egli era esposto, ma senza saperlo. Prima non aveva paura, ora però, dopo che sa, viene assalito dalla paura, sebbene l'esserne a conoscenza non abbia alimentato il pericolo. Le forze del mondo sono distruttrici e costruttrici. Il destino degli esseri è di nascere e perire. Il savio deve osservare l'azione di queste forze, il corso di questo destino. Il velo che si stende nella vita ordinaria davanti all'occhio spirituale deve essere allontanato. L'uomo stesso è però contessuto in queste forze, in questo destino. Nella sua natura esistono forze distruttive e costruttive. Come le cose tutte si svelano all'occhio spirituale del veggente, così gli si svela la propria anima. Di fronte a tale autoconoscenza, il discepolo non deve perdere forza, non gli mancherà soltanto se ne è provvisto ad esuberanza. Per riuscirvi, deve imparare a conservare la calma e la sicurezza interiore nelle condizioni difficili della vita. Deve coltivare in sé una ferma fiducia nelle forze benefiche dell'esistenza. Deve sapere che molti impulsi che lo guidavano nel passato ormai gli verranno meno. Deve convincersi che fino ad ora aveva fatto e pensato molte cose soltanto perché era prigioniero dell'ignoranza. Le ragioni su cui prima si basava non avranno più valore. Se aveva agito per vanità, si accorge quanto la vanità sia priva di ogni valore per il savio. Se aveva agito per avidità, si avvede che questa esercita un'azione distruttrice. Dovrà sviluppare moventi del tutto nuovi per i suoi atti e i suoi pensieri. Appunto per questo occorrono coraggio e intrepidezza. Si tratta soprattutto di coltivare questo coraggio e questa intrepidezza nelle intime profondità della vita del pensiero. Il discepolo dell'occultismo deve imparare a non perdersi d'animo per un insuccesso. Deve essere capace di pensare: voglio dimenticare che ancora una volta non sono riuscito e tornare alla prova come se niente fosse successo. Si conquista così la convinzione che sono inesauribili nel mondo le fonti di forza alle quali può attingere. Per quanto fiacca e debole sia potuta risultare la parte terrena del suo essere, egli aspira sempre di nuovo allo spirito che lo solleverà e lo sosterrà. Deve essere capace di affrontare l'avvenire senza lasciarsi disturbare nel suo cammino da alcuna esperienza del passato. Se il discepolo ha fino ad un determinato grado le qualità descritte, è maturo per conoscere i veri nomi delle cose, che sono la chiave del sapere superiore. L'iniziazione consiste appunto nell'imparare a denominare le cose nel mondo con i nomi che esse hanno nello spirito dei loro artefici divini. Quei nomi contengono i segreti delle cose. Gli iniziati, perciò, parlano un linguaggio diverso dai non iniziati, perché i primi conoscono i nomi per mezzo di cui gli esseri stessi sono stati creati. Nel prossimo video si tratterà l'iniziazione, per quanto è possibile parlarne.